rimane accesa, aspetta. Vabbè, pronto, sì. Certo che sì. Pronti siamo, che ore sono? Qui, alle 6:10 sono. Ho un bacio bellino dalla giornata oggi. Ma come è, ma anche a me mi fa così, mi dice la primavera. E il sonnaretto mi viene. Eia, no, io oggi non sono riuscito a riposare per l'ansia, perché altro per l'euforia dell'andata, capito? Non so dove stare, capito? Perché non sono abituato un po' a uscire con gente, quindi sono un po' euforico, dai. Sì, è giusto per passare un fine settimana tutti assieme. Evadere un po', anch'io voglio riuscire, la verità, no? Sempre a casa, sempre a chiuso qui, e adesso sto massaggiando con un mio dirigente e un collega, capito, quello che ha preso il mio posto. E lui è già avvisato appunto con noi due di dietro lavoro, perché sta succedendo di tutto e di più, perciò è un casino, ma vabbè. Meglio così. Eia, fatto bene, non è entrato nessuno, come mai si stanno tutti truccando, eh? Per l'uscita di stasera, io sono in pigiama, sono in pigiama ancora. Poi mi vesto, ci metto un istante, sono abbastanza sbarbato, cioè meno di mezzo millimetro di barba, ma non c'è nemmeno il tanto di farla a me. Si sente appena appena, anzi un decimo di millimetro di barba, manco a farla. Non ci formalizziamo, no? Se vediamo a me, ma hai visto la foto sulla barba? Io ce l'ho più barba. Già una settimana che ce l'ho. Questa voce non c'è spettacolo all'ospite di, infatti ho chiamato stamattina perché non sono potuto scendere per prenotare. Come ho detto, ma vi lo spettacolo lo vedete? E ho detto, vabbè, questo momento ho dentro fuori, comunque c'è la veranda, vabbè, scaldate. Non so come fa, perché è pieno, non me l'ho chiamato stamattina. È pieno, capito? E quindi, vabbè, vedi tu, mettici da qualche parte, batteci, metti, quando arriviamo ci sediamo, devo stare a aspettare che si liberino i traffici. C'è spettacolo. Allora Gianni è contento, lui piacciono i bar o le pizzerie dove c'è anche un po' di animazione, capito? O gente che suona, o il karaoke, capito? A me interessa solo la pizza. Ho guardato già la lista delle pizze di quel posto. C'era su internet e c'hanno quella che voglio io. Aspetta che mi avvicino il microfono, se no devo parlare forte. Salmone, ma panna, salmone e gamberetti. A me di gamberetti non me ne affutti niente. La voglio senza gamberetti, casomai aggiungano un po' di panna di salmone. Già sono tutto lì. È un bel posto enorme, grandissimo. Bello. Sì, sì, c'è spettacolo. Non so cosa. Come abbiamo detto che quando vanno loro c'è sempre spettacolo, quindi è un bel posto, è un bel posto. Vabbè, così ci divertiamo, passiamo una giornata diversa, ci facciamo ci attesa, che al lavoro, se no se abbiamo fatto due risati, no, non può mollare, poi la prossima, ho detto già si fa, già si libera. Vabbè. No, io ho acceso adesso, cioè era acceso sempre, è sempre acceso, da stamattina è acceso, ve l'ho riparto, però c'è il volume abbassato. Va bene, va bene. Leia. Leia, notizia dal fronte di Elio Piuma? No, Elio mi ha fatto un messaggio, ringraziamo, mi ha appunto l'invito, ma c'è gente, ma me l'aveva già accennato, capito? Non sapeva con certezza come era organizzato, però c'è gente, non può, alla prossima. Comunque ci ringrazia per l'invito, lui è sempre venuto con noi, capito? È sempre venuto con noi, KK, quindi non c'è problema. Non ho detto niente a Gianfranco, accennato io ieri sera, ho detto Gianfra, ma te è stato esteso l'invito, cioè potresti venire? Dice no, no, sei occupato, ce l'ho a fare, mi ha detto. E accidenti, non è che uno deve essere attaccato alle radio, già per un'oretta e mezza, due già poteva venire, ma ha detto di no, insomma. Sì, ma infatti le ho, ci ho indicato con i video, ma la stessa cosa, anche Giulio mi ha detto appunto che tempo fa, no, non esce così. Stavo massaggiando con lui, con lui la pizza l'ha mangiata ieri, lui ogni giovedì c'è la pizza. Invita l'altro Gianfranco, quello di ieri. Pomponio, allora, impegnato stanotte, sì, confermi? Sì, impegnato sì, perché la giornata era del dove, stamattina sono andato da San Camillo, fare la richiesta del materasso, il letto, la duetta per poterlo sollevare, cioè sollevare la letto e metterlo nella sede dell'hotel. E poi sono andato alla, ho fatto la spesa e sono andati là. Sono iniziato alle 2:30. Cazzo, era mi ricordo, come la mattina mi hanno regalato una scatola dove la roba lei, dove la verdura, però non mi sono accorto che c'era le fave. Mi sentivo strano, tipo, mi sta dando il tuo. Sono una cacca che mi sono stata in Italia, io ho due dentro a cacca che sono in direttamente. E la parola è perché dentro una butta aperta. Boh, non ho capito quasi niente. Claudio, traduci. Sai che così tanto male sto scendo? 1, 2, 3? No, Antone, è che come parli tu? Alla fine, mi ricordi, sai chi? A Guilagia dovrà anche per una pulappa da voi, capito? Scende di Robertino. Ho vado già, ma tu cazzo. Ah, quello è Medigavi. Ho capito. Ho detto perché sono impegnato, poi non so che non esco al medico, se non sei venuto io lo sai. Ti volevo dire, stamattina siamo andati là, allora a fare la richiesta della via San Camillo per Giampiero, per il letto, tutto quello che ci vuole da prendere la casa, per mettere le sedie rotte. Dopodiché siamo andati lì alla mezzogiorno e mezzo, siamo partiti da Sassari, siamo arrivati lì a 10, siamo stati un 3 quarti d'ora, poi siamo ripartiti, siamo entrati alle 2:30, solo che lì ero sì, mi hanno regalato uno scatolone di bordura, no? Evidentemente nel scadenza, non lo so questo. E non mi sono accorto che c'erano le fave dentro. Mi sentivo strano intorno, capito? Sentivo questa sonnolenza strana, c'era presente. Ma sono arrivato a casa, qui, sotto casa, mi fa aperto sotto il bus, le prime due, e sotto c'erano le fave, cazzo. Ho preso le fave e ci ho buttato nel cazzoletto. Ma perché pure fatti così? Mi sa di sì, perché mi ha fatto quell'effetto e mi sa che mi faccio controllare perché è una cosa un po' strana. Prima le fave le mangiavo quanto ne volevo, sai cosa, addirittura quando c'era la campagna a babbo scendevo giù, le piantavo, rimanevo lì, quando le fave erano in fiore non mi succedeva niente. Adesso invece mi creavo questo problema, non ho capito il perché, cosa, magari debolezza, non te lo so dire. Claudio? Beh. Sì. Ho capito, Antonio. Ma ci avete già fatto la richiesta, quindi quando te lo portano letto. Speriamo a fine mese, lo sai che ci passa un po' di tempo lì da San Camillo. Vi ho detto che forse veniamo lì e ce lo vado subito. Devo aspettare che arrivi da fuori, da Genova mi sembra addirittura, la ditta arriva, cioè la roba arriva da Genova. No, ne manco più un magazzino, neanche più magazzino c'è, San Camillo. Oh, yeah, yeah. Va bene. Va bene, va bene. Disastro. Sento un casino, sempre un casino, non ci sono queste cose qua. Io fortunatamente qua non c'è come associare a casa, non c'era bisogno. Perché poverina, poi si è ammalata ancora di più. E se ne andava a uscire, se no avesse, mi avrei fatto fare subito quello che mi serviva. Va bene, avanti Marco. Ehi, ehi. Bene. Va bene, non so cosa dire, sono un po'. Te l'ho detto che sono in ansia, Zucchini. Già si vede che non esco mai. Mamma mia come sto, pipistrello proprio. Vai andare a un matrimonio. Vai andare a un matrimonio. Uscire così a farci due chiacchiere, due cose, mi piaceva la pizza, a passare un po' di tempo, ascoltare un po' di musica, tutto qua. Un Natalino, Natalino, stamattina l'ho sentito. Stavo mettendo tutto a posto, rifacendo. Non so se ci stava rinnovando la camera da letto, non so, Natalino. Sì, gli hanno portato un divano letto. Ah, già pagato. Sì, ce l'ho vista quella foto del tuo profilo, c'hai più peli sulla barba che in testa, gira gira. Sì, no, via Paola. No, vabbè. Però la barba è bianca e i capelli sono scuri, hai notato che è strano? Sì, vabbè, barba è bianca e nera, giuventina. Barba bianca o nera. Ehi, ehi, ehi, ehi, mi dispiace per Antonello che non viene, proprio oggi doveva capitare quella incombenza, però mi avverti, se per caso vi dicono che non dovete andare stasera, avverti, anche fino alle 7 c'è tempo per avvertire, casomai se non ci posso sedere già ti diamo una ciotola. Tipo, per applicare. sarei venuto volentieri, il fatto che fare documentazioni è un casino, è veramente un casino, guarda, anche perché il telefono da là, lo sai che le persone adesso sono cambiati i tempi, i pratica le tengono 2 o 3 giorni e poi li vogliono rimettere per forza, ci sono pochi a casa, capito? Come ci fosse un sacco di patate. Allora c'è un'infezione come si chiama? A pisello, all'interno, c'è quella pompetta di merda che gli hanno messo, la saggezza. E uno si c'è in pratica, se ne sono accorti dall'ospedale di Tisi, non l'ospedale di quello di c'è qualcosa che capite medicina. Figurati tu, la dottoressa è giovane, mi ci avrà letto. Sono un po' più piccolo di te Marco, ma buona. Se ne accorta lì. Se non l'avrei mai saputo, adesso domani mattina devo andare lì ai carabinieri per la rinuncia per maltrattamenti, perché non è possibile una cosa del genere, cioè pagavo tutti questi soldi per niente. Sì, breve Antonio, sì, c'è conciso, come diceva quel comico. Ma tu stanotte cosa devi fare esattamente? Devi portare roba, vestiti? All'ospedale, cosa devi fare esattamente? Spiega. Ah no, siamo già andati stamattina, ma non devo fare proprio niente. Ecco, fra un po' devo andare dal medico di famiglia e fare la richiesta per il fisiatra, si chiama, questa stessa. E quindi, cos'è le ore? C'è la fila dei pacciucci che sembra di essere dal sindaco di Andera. Quindi non so che non esco, come lui alle 5 mesi dovrebbe essere lì, e lui dice nemmeno alle 7 e mezzo, poi non lo so, la parola ho dovuto aspettare fino all'ultimo, non mi ha fatto neanche poi lui, me l'ha fatto un altro medico che c'è. E insomma la cosa all'altra. Sei venuto Marco volentieri. Allora la prossima volta che si organizza, che abito prima, ci organizziamo e a andiamo, facciamo lavorare, ci vuole bisogno, prima che il campione venga, per rilassarmi, divertirmi. Sono vivo, quei 10 anni che non vado in pizzeria, figurati tu. Tu c'è l'ansia, e io l'ansia, ma fortunatamente non lo so perché ok, però il fatto che quando esco fuori mi rilasso, capito, mi diverto con gli amici, si parla, si fa, si mangia la pizza assieme, la fa pranzo. Il fatto che adesso purtroppo non ho, però mi viene ben male, se no sarei venuto qua, veramente sarei venuto, mi sarebbe piaciuto parecchio. Boh, eppure tu hai detto appunto stanotte non devi fare niente, parole tue, cioè dalle 9 alle 11, noi alle 11, 11 e mezzo saremo a casa, mi, non torniamo mica alle 2, mi. Allora trova un'altra scusa, di che per i soldi, Miglio, dai, di la verità. Sì, se fossi per i soldi l'avrei venduto, guarda, il Code 4000, non sarei avuto, non avrei avuto problemi, le... quanti posso dire, il bagno 269, per una pizza l'avrei detto, ah, voglio fare, mangiarmi la pizza, ti do il bagno 269. Qualcuno se l'avevo venuto in fila ci sarebbe stata qua, tranquillo. E poi a volte mi ha chiesto una roba, io, sai, se volevo vendere qualcosa, si è portato 30 euro. No, grazie a Dio non ho di quei problemi, siamo stati, c'è il banco matto di Giampiero, quindi per lo meno sono tranquillo per questo motivo lì, se voi mi avete voluto bene già. Sarei stato di fronte a Claudio in chiesa lì a ritirare il sacco. Grazie a Dio non ho... Sono andato, sono andato via da San Donato e non ho evitato più niente. Lì proprio c'era da soffrire. Ogni volta luce 110, 120. Il livello non ce n'era, Sempre così. 110, 120. Se no non mi sarebbe detto tanto meccolo. 100 euro. Quindi fatto bene, sto a casa, grazie a Dio. Spendo poco. Bene, bene, bene, detto che non stavo messaggiando con un carissimo amico, ok, forse l'unico rimasto. Ciao, grazie dell'audio. E quando vuoi noi siamo qua, non c'è problema. Tanto siamo solo qua, tutto il resto è noia, come diceva Califano. Ok, molto bene. E beh, lo sai che la mia voce si deve distinguere da quella degli altri, quindi rimane sempre un po' più diversa. Ok, ma sempre apprezzata. Sì, Antonio, queste cose purtroppo buttano anche un po' giù. Ok, però bisogna andare avanti, bisogna andare avanti. Adesso organizzati con tuo fratello, tutto, poi vedrai che le cose si mettono a posto piano piano. Mi dispiace che non ci sia stasera, capito, ma ci saranno altre occasioni per poter stare insieme a noi, non ti preoccupare. Va bene. Avanti Marco. Ehi, però l'ha detto, vedi che l'ha detto, che stasera non deve fare niente, non deve portare cose a Tiesi, cioè rimane a casa e non fa nulla. Poteva bellissimo venire, poi già usare Antonelli, se per i 20 euro mi vendo un altro baracchino e ti pago la pizza. Non è voluto venire. No, beh, Marco, dai, no. motivazione per fare determinate cose. Io capisco Antonello perché, ripeto, sono passato anch'io con mia suocera, quindi perché era sola, mio suocero è morto prima, mia madre non è che sia andata a forma, 84 anni, però c'è il marito, quindi non ci sono problemi, insomma, è assistita, quindi questo ragazzo non lo ha fatto male solo, così c'è il fratello, c'è la sorella, perciò capisco che Antonello non sia motivato per poter uscire, divertirsi e fare, già esce così la mattina di corsa, va, si prende una cosetta, poi si rientra a casa. E quindi è così, perciò capisco perfettamente la situazione. Ci saranno altre occasioni per stare assieme a noi, Antonello, Marco, quindi non ti preoccupare, non è che facciamo questo, eccetera. Adesso inizia il tempo, quindi si esce, si fa, la sera ci vediamo un po' per fare segna, dandoci una cosa più assieme, quindi non ci saranno altre occasioni, non problem. Eia, ho visto quel trans, che cosa orribile, senza denti, poi sotto invece si è levato la gomma, c'era un bambino tra le gambe, un bambino di un anno, che cosa schifosa. Ho amato per quello, perché poi è Matadoio, è un rumeno, è un trans rumeno che il mio collega mi fa pesi, capito? Me l'ha mandato ieri sera mentre stavo cenando, qui tu figurati, sto cane morto, me l'ha mandato con proprio le faccine ridendo a squarciagola, perché sa che a me mi fa proprio schifo per com'è. Però me l'ha mandato perché io avevo proprio, diciamo, parlato del resto, vai, non dite parolacce che c'è gente che ci sta ascoltando. E quindi è quello che io dicevo, lui continua a mandarlo per farmi vedere sempre la solita cosa, ma è pazzesco cosa c'ha sotto, cioè, una cosa allucinante, mai vista, ma normale, in fase proprio normalissima, già l'hai vista, normalissima proprio, tu immaginati all'aldilà come potrebbe essere, Sant'Antonio mio, sai che sto pensando a Vladimir Lussuria. Questo è peggio, senza denti, mamma mia, ha fatto uno schifo, sì, se a riposo è così, mamma mia, mamma li turchi proprio. No, oh, cosa brutta. Questo è questo, mamma mia, per carità, se incappi in uno del genere, me, ui ui, per carità. Ma poi bello fosse, cosa atroce, senza denti di sopra. Basta, tu stavi pure mangiando, quindi figurati lo schifo che ti è venuto. E me lo fa apposta, lui sa gli orari, no? Quindi me lo fa apposta, capito? Ma è schifoso quel video, allucinato, ti ci comando Marco a farle vedere questo individuo cosa c'ha nella borsa. E ce lo mando Antonello, mi, quando sta mangiando. La festa ossice, andiamo anche lì, ci ubriachiamo finalmente, ci dimentichiamo di tutto, dai. Eia, un attimino che mi aggiusto qua, che sono in posizione, ecco qua, vediamo se funziona sto telefono, mamma mia, già è poco lenta la connessione, è poco lenta, ogni volta, lo sai che per funzionare la connessione in questa camera devo appoggiare lo smartphone sul baracchino, che è di metallo, no? Fa da superficie riflettente e allora riesce a inviare foto, messaggi lunghi, capito? Video. Oh Claudio, tipo parabola fa a me. Bene, bene, bene. Beh, adesso io comincio però a prepararmi proprio, prepararmi bene. Non lo voglio fare all'ultimo momento, mi, perché sennò poi è un casino. Gianni è puntuale, quando arriva mi vuole vedere già giù. Sì, ma non la prima, guarda, non ti conviene, ma sto vincendo per il saliente. Perché tu ti viene l'ansia e vai in bagno 3-4 volte a fare la cacca, sto vincendo. Tu ti viene ad andare a fare la pipì. Lo fa parecchie volte, lo fa anche a me qualche volta che vado a fare col succio. E su questo periodo che non sto facendo. Mi sta trovando un volante, che devo prendermi la macchina di luce, ritorno con gli altri. Invece andare negli uffici a fare la documentazione è un casino. È un casino. E non ero più abituato alla verità. Ehi. E tu grosso modo, Antonio, che gocce prendi? Se sono uguali alle mie, dimmelo un po'. Sì, non è un problema, lo prendiamo tutti, non è che sono solo io, ma con chi è anche il ragazzino. Spesso stanno prendendo, ma non è che ti do 50 gocce, ma ti do 8 e basta. Capito? 8 gocce, faccio colazione, poi prendo e vado negli uffici, faccio le documentazioni, non sai che aspettare. È un casino, è come quando vai all'unico, fare uguale, devi fare l'ultimo, e il danchini, il discorso è quello lì, più che altro è quello, capisci, creare ansia, aspettare negli uffici, e il turno tuo, capisci? Io ho trovato tutto, sono veramente bene, ero da fare che guarda, non le pigliavo, tutti siamo dei figli di panico, magari tu non te ne accorgi cosa del genere perché c'è la niente. So, io che ci sono passato tanti anni fa perché mi è avuto un mal di petto forte, da mal di petto ti spaventi e ti viene a fare un mal qua. Capito? Oppure qualche spavento, ma così, qualche sogno che fa di notte magari, ti mal di notte, e quindi si crea, vabbè tu non ti rendi conto, però sono ansia. Eia, ehi, sognati di notte questa adesso, mi. Questo mi è arrivato un messaggio su WhatsApp, quindi mi ha mandato anche più, che mi ha mandato. Io si sente di inizio fotografia, anzi, appena che tengo il telefono della Motorola, ti mando il filmato di quelle due ragazze brasiliane che si fanno le bocca, quelle che si mette sopra di me in tutti e due e facevano una cosa con quelle da testa che avevo io. Ehi, guardatelo, guardatelo adesso, dai. Aspetta che me lo guarda, aspetta tu. Allora, se non la preparati, non lascio, chiamo mia figlia io perché deve venire a sistemarsi il cane. Cioè adesso mi faccio una doccia, lavo i capelli, tanto barba non la devo fare, abbastanza in ordine. Ho pulito la poco, quindi non serve a niente. Vabbè, io sono qua comunque per la cronaca. No, non problem, ok. Eia. Vediamo, Antonello, se ha finito la visione di quel bellissimo video. Ah, questa non mi fa niente a quella che abitava dietro casa mia e io stando l'altro, lo sai. Non va giù. Anzi, quella che stanno l'altro sono le 7 proprio, uguale, precisa, con la parrucca. La macchetta calpestro c'è sempre uno di questi uomini grandi, ha preso il lavandino, gli ha fatto tutta la pizza per l'orecchia, lavandino, cesso e direi che hanno messo tutto dentro al tutto. Vedi, comunque Claudio, quando gli mandi questo tipo di video, Pomponi non si impressiona, lui è abituato. Si può dire, era abituato che ha fatto una cosa, passava di tutto lì. È abituato, vabbè, è un video normalissimo, non è che ci sia, non è che questo personaggio è talmente brutto che penso che più brutti di quello non ce ne siano. E poi il fatto che tiene nascosto nella borsetta un affare del genere, Madonna santa, è un pericolo pubblico quello. Eia. adesso però chiudo, faccio le ultime finiture e ci vede dopo, dai. Ciao Antonello, ciao Claudio, ci vediamo dopo, da voi, ok? Ciao Antonello, mi dispiace, però la prossima volta non devi mancare, non me ne ha fatto nulla, ti veniamo a prendere di forza, capito? Ti chiudiamo il baule della macchina. Tranquillo, io mi sento che sta andando qui vicino, ci sono i cinesi, quando abbiamo finito di mangiare ci facciamo tutta la digestione. Sì, va bene. Ok, ciao Marco, lì a dopo, dai. Tanto noi ci dobbiamo vedere a cena, quindi. Va bene, il gruppo è già attivo e stanno tutti preparando messaggi e contromessaggi su WhatsApp. Va bene, a dopo Marco, preparati, fatti il bello e ci vediamo dopo. Ok, io sono qua, Antonio, che devo mangiare il cane. Se mi aspetti 5 minuti, io ho ancora due chiacchiere, me le faccio intanto. Devo aspettare che scenda Valerio Valghero con la truppa, capito? Va bene, dai. Sì, ecco, secondo la cosa, Liliana, lì dove sono quei medici, faccio fare il foglio di fisiatra, se non c'è l'esodo faccio fare l'adulto, tu quello che e così sono a posto. Perché lunedì mattina poi devo andare a fare a consegnare tutta questa documentazione a San Camillo, ho capito. E adesso che mi è rimasto a consegnare, c'ho la... Come si chiama, è stato... dove sono... tutore, devo parlare di quello e poi questa cosa di fisiatra, me lo vado fatto tutto, siamo a posto. Ma io mi ti importa importante quello 40 cavalli dell'altra volta, tanto già ce l'ho qua. Nel caso ti rispondo dalla vicina casa tua, là, già mi senti 27 su 10, però posso apprezzo. Apparirò, smetterò, va bene Antone, se lo sai che già ti sento, non c'è problema. Ok, mi allontano un attimo, ma sono qua, è tutto acceso. A dopo, ciao a tutti. Via, ciao, a dopo. Qua sono io, sempre qua sono io. Valerio, attento Valerio, e io che ti sento, dove sei, già in viaggio? Bene, bene, io ero con Marco, è andato a prepararsi, già mi stava preparando, diciamo, tutta la greca sta preparando. Vabbè, pronti siete? Mi ha detto che in ansia, Valerio. Dai, fatemi lavare i denti, mi sono venuto con i denti sporchi. Lava i denti, se no poi non sei la bocca più baciata di Preda Nieta, Sei sicuro, me? Beh, vale. E quindi, sei in viaggio? A posto. Bene, bene, io mi sono già preparato, non c'è problema. Non problema. Cosa stavo dicendo? La macchina la metti dentro casa, dentro il posteggio. Non togli anche l'antenna, togli. Beh, non togliere niente, la metti dentro, capito? Non togliere niente, la metti dentro e il problema è risolto. E vabbè, intanto quando riparti non c'è nessuno, non ti conviene mettere niente, ti accendi la radio e sei già pronto. Vabbè, dai, sei tu qua, ho detto che sei qua sotto, quindi non c'è problema. Va bene, d'accordo. Vabbè, Andostas, Valerios, Andostas, dove sei? Ormedo? Va bene. Scusa, non si lamenterà nessuno quando vengono a casa mia? No, non è che poi passare dentro Sassari. Se esci dallo scorrimento veloce, dalla camionale, scusa, entra via l'Italia, no? Fai via l'Italia, tutto in uscita, carabinieri, dritto dritto, te ne sali su. Appunto, non passare mai da via Mendola, no? Oh, non si passa di io, mai, io entro, esco da lì, da via l'Italia, capito? Da lì. Quindi molto più scorrevole, meno traffico e tutto, e poi no, già va bene, no, si sta pulendo le ali, capito, sta facendo le prove di volo, a ver se riesce a volare stasera, yeah. Stasera ne abbiamo due di uccelli, capito, ne abbiamo due di uccelli, c'è il pipistrello e il merlo pure c'è, te lo dico dopo chi è, ma c'è un altro uccello, capito, quindi abbiamo due, siamo a posto, sì, solo che lui ha poco, il pipistrello, capito, il pipistrello deve filare dritto, se no Chiamo intanto me. Dove vuoi andare tu? Come sto? Bene, bella. Bellissima giornata oggi. Non hai fatto niente, foto, nulla, vale. Bella giornata. Io stamattina, ma stamattina sono scoperto io alle 8:30. Vado per il mio caffè, poi rientro alle 9, porto il cane e poi dalle 10 a mezzogiorno sono a casa perché purtroppo non ti puoi muovere. Sono uscito verso mezzogiorno e un quarto, così ho visto che c'era abbastanza caldo, bella giornata. No, l'ultima volta che me l'hanno detto ce n'era di acqua, ho voglia. Quelle precipitazioni che hanno fatto, ci siamo risaliti alla grande, però è chiaro che non puoi stare molto senza un mazzo, come quest'anno, diciamo che in linea di massima è abbastanza corretto, se no un mazzo passerello prima il sole più l'ombrello, quindi sappi che le piogge di marzo sono anche disastrose. Quando piove è un casotto, ma penso che non duri comunque il tempo così, non duri. Adesso fra un po' c'era questa perturbazione di passaggio tra quanto avevano dato al meteo, quindi possiamo usufruire ancora di qualche altro giorno, poi un po' cambia, è troppo presto, giornate così belle, capito? Abbiamo toccato i 21 gradi oggi, perlomeno qua nella mia zona, il termometro esterno e la finestra era sempre a 21 gradi, 20-21, quindi mi sembra un po' troppo presto la cosa, anche a marzo, ma infatti sembra un po' strano che ci sia questa calma così, capito? Mi ricordo l'anno scorso, febbraio e marzo ha dato di brutto, di brutto, poi una bella, bellissime giornate ad aprile, quasi estive, poi maggio lo stesso, però poi ha piovuto, ti ripeto, queste piogge così primaverili sono molto pericolose, soprattutto per le campagne, per chi non ha preso precauzioni di appunto di controllo, dai, chiamiamolo così. Va bene, dove si è arrivato? Uscita per Bancali, il bivio, quindi sei già nella tra dei due mari, cioè nella tra dei due mari, nella camionale. Ho capito, è già svincolato, hai già fatto tutto il tratto nuovo in uscita da Olmedo, quindi stai per svincolare nella camionale, perché se hai già lasciato il bivio per Bancali. Eccomi, mi era la capignara, e beh, profumato ti sì. No, se fosse un incontro galante mi sarei profumato, dai. Ma te l'ha fatto Natalino, viene scesa la mazza oggi con quel divanoletto perché gli erano mollato nel portone gli operai, dice non erano tenuti a portarglielo su, gli erano mollato lì, ha dovuto chiamare un amico a farci aiutare, non saliva nelle scale, ha faticato fino a poco fa, la mazza viene scesa lì, non ha riposato niente. Mi ha detto vabbè adesso acchittati un po', dai. Lui credeva fosse alle 7 l'incontro, si era dimenticato, invece alle 7:30 da me e poi 5 minuti dopo saremo da lui, ok? Avanti Valerio, dove sei arrivato? Nel 131, vedi il penetro a 131, quella è la camionale che è a 131, quella è la camionale a 131, inizia da via d'Italia, tu svincoli per la 131 quando sei all'uscita dall'ingresso in via d'Italia. Antonio di Alghero, hai capito, non è pratico in queste zone. Sì, ma infatti oggi vedo il numero a Natalino perché per radio non glielo dato, qui c'è bisogno di qualcosa, mi chiama, perché non aveva il numero, se no se mi chiamava andavo via da Donovan, non è che chiama a te, no? Rincoglionito come ti sei, tu, a salirci un divano alla sarebbe uscita la canna, avresti perso anche le ali. Dio, e già lo credo. Con quelle scale che sono alte alte, mamma mia, sono quelle scale di una volta, mi. Poi un casino farlo salire lì, è un casino perché poi è a 90 gradi la scala, a un certo punto casino mi. Poi sono arrivati anche in ritardo, anziché a mezzogiorno di mattina sono arrivati a luna. Gli avevamo mollato lì e stasera tentando di far salire questo granulè, poi già ve lo racconta lui, dai. Ok, dai. Pompolio, tu sei? Sì, Santiago 8 e 3 quarti, 8 e 3 quarti. E dove stai andando di bello? Ah, le fave a Nico, può darci che tu sia leggermente fabi come Antonè, se ti ha fatto quell'effetto. Inteso hai Claudio, Antonè l'ho mezzo fabico e dice che aveva le fave, non sapeva manco gli avevano date e stava sentendo poco bene. Ma favette fresche Antonè, allora fatti controllare perché può darci pure che l'odore delle fave ti faccia male, capite? E quindi c'è anche Fabio, ah, siamo accortici, ah, la grande andiamo, lui io vale, ando stas. Appunto, sì, camionabile, non c'è da 31, scusa. E sto scendendo qua, è tutta una discesa lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, lunga. Vedo Sassari, tutto illuminato, bello, tutto bello, Sì, davanti a me, 9 più 20 stai arrivando, riesci a vedere. Allucinante, sì, dalla macchina. Ma già quando si è partito dal ghero di 9, figurati, adesso sì, 9 e 20 abbondante. Ma senti a Valerio, Marco, sì. Oh, la mattina andando a piedi da Nico. Ah, ho capito. Ma stavo aspettare, scusa, ti avevo dato un passaggio io. Aspettavo 10 minuti che arrivava Valerio, passavo a prenderti e ti davo un strappo da Nico. No, Antonè, ci abbiamo appuntamento con gli altri in via del Portotolo, se non mi posso fermare, che alle 8 siamo prenotati via. Ospiti lì, capito? Ci abbiamo appuntamento tutti in via del Portotolo, perciò sto aspettando a me a Valerio, appena Valerio fa l'ingresso lì, l'uscita praticamente la camionale che svincola per via l'Italia, io sto scendendo giù e l'aspetto giù, capito? Ehi Antonio, va bene. Gianni? Vabbè, pronto sì? Io sì. Non so Marco se è pronto, ma penso di sì. Valerio sta già arrivando, quindi 10 minuti è qua. Dove sei arrivato Valerio? Adesso prendo lo svincolo lì per via l'Italia. Ah ok, beh. Valerio sta già svincolando via l'Italia, quindi io me ne scendo giù. Vai. Allora già, organizzati, vai, senti a Marco che è già pronto, vai, prendi a Marco, a Natalino, ci vediamo in via del Porto Torres. Telefono acceso, ok, il telefono a portata di mano. Ma non fai qualcosa, con Valerio, non c'è il baracchino. Oh Valerio, penso la macchina lasci qua, penso la macchina lasci qua, abbiamo il baracchino, vabbè, anche quello è vero. Penso la lasci qua Valerio la macchina. Vabbè che lì ce li abbiamo davanti le macchine, non c'è problema. Ma pure. Io alle 7:30 ti ho detto a Marco, alle 7:30 sono lì. Speriamo che, sperando che sia qua. Ah, io sono già pronto, tutto profumato, sembro, non vi dico cosa. Allora già, c'è già pronto, io mettiti in macchina, vai e prenditelo, così, dai, facciamo le cose con calma. Dai, io sto chiudendo, sto scendendo da Valerio, se Marco è già pronto, vai e prendilo. Così andate e prendete a Natalino e poi ci vediamo un tigre del Porto Torres. Senti che la maniola, se stai in mezzo, non la fa troppo presa. Ma c'è la vita, ci vediamo, no? Se ci abbiamo appuntamento alle 8 là, però ci vediamo prima. Io te lo faccio, c'è problema. Adesso va. Oh, e poi l'aperitivo non te lo vuoi prendere prima della pizza? Voi sono con i sedi, aiuto, vai, prendi a Marco, a Natalino, ci vediamo in via del Porto Torres, vai. Telefono in mano, in Marco, ok? E Gianni, telefono in mano, perché io non ne ho di baracchino. macchina. No problem. Claudio, fatti trovare nel ricollettore da battaccio di intero, quindi almeno non siamo a sbagliare nulla. E io, lì è l'appuntamento, e io so, ci vediamo lì, il riformitore, cos'è, QE, adesso cos'è, non mi ricordo, non mi ricordo, a quel riformitore di fronte al cimitero, ok, ci vediamo lì, ciao. Ah, Claudio. Dica. Oggi è venerdì 17, mi occhio, può succedere di tutto, anche un incidente mortale. No, oh, bendaccio. Proprio per il vai, non mi fare le parolacce, ma fammi che c'è una cosa allucinante, tu non vado da nessuna parte. Ui, ui, ui, lui ci crede. Va bene, vabbè, dai. Sono... ci aspetto Gianni, dai. Ciao, ciao, ciao. Gianni, mi faccio trovare da scarpa, ok? Gli ha baciuto, eh. Claudio è già sceso, ok. Pomponio, cosa stavi dicendo? Ah, via Torino, via Le Dante, ok. Vabbè, Antonetti, ti saluto, dai. Ciao, ciao, ciao. Sei troppo basso, Antonetti. Sto chiudendo, dai. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Attento, ok. Non mi fuggi da me. Sì, cazzo, mi sono appena entrato in camera. Marico, ti ricordo questo. Mi stiamo andando tutti a mangiarci la pizza, tutti in Grecia. No, è dopo, eh. Sento la pizzeria che c'è. E chi trova una moglie di cosa metta? Vabbè, tu sei più innamorato. E tu no? No. Ma, già, se non mi dite niente, io mi organizzo e esco. Vabbè, comunque, tutti i papà siete. Vieni, non c'è problema. Ah, adesso non fa, no, troppo tardi. Avanti, chi è che chiama? Ciao Giuseppe di Alghero, buonasera. Mi ascolti? Sì, ci arriva l'Alghero. Ecco, allora, saluto di Luca da questa, dalla zona Sassa di Monte Rosello. In compagnia di Gianni, non so, ascolti, avanti già. Giuseppe, mi ascolti, cambio. Non c'era dubbio. Gamba, gamba. Ciao Giuseppe, sentito, avanti. Sì, dai, dai. Arrivo bene giù all'Alghero, ma anche l'Alghero o qualche zona prima di Alghero? Ciavolo, allora io va bene, dai. Questa antenna ha preso freddo, acqua, vento e ancora sta andando, dai, io va bene. Non so che tu che antenna stai usando, Giuseppe. No, antenna. No, sono le ragazze adesso, stiamo qua. La prima non lo fatti dire. Se magari lo posso vedere, ve lo dico, capito? No, adesso non fa. Ci ho già preso impegno per stasera. Andate, andate, alla prossima allora. Divertitevi. Di solito ci ricordiamo il mio amico. Stavo dicendo a Giuseppe che ho una mantova, capito? Mantova 5, mi sa, uno, no, la 5. Niente, siccome ho notato che ci sta attaccando il cavo, anzi si è già attaccato al palo, e praticamente c'è il filo a pezzoloni e sono agganciato al PL dall'antenna. Sì, stanza di Monte Rosello. E più su, molto più, via Grazia d'Eletta. Io sono lì. Vabbè, tu ci sei una gran play, va bene, esci bene, arrivi bene qua a Sassari. Poi ho passato, vai. Allora, facciamoci tra il 7 e l'8, è Radio 4, ma ti ascolto bene. Che avanti? No, lui ci sono ben basso invece, tu sei il segnale 3 da me, come mai? Caio, sto andando via, dai, ci sentiamo, ciao, ciao Giuseppe. Ciao, ciao, buona pizza, ciao, alla prossima, salutami gli altri, ciao. Così mi arrivi, non lo so, arriva forte quello di Alghero. Aspetta un attimo, Alghero, cosa, Eugenio? Giuseppe, aspetta un attimo, che sto parlando con Eugenio, so quello compri. Stavi dicendo, Eugenio, ripeti. Ma mi ascolti, Giuseppe? No, stavo parlando con un amico, se parli tu lo compri, capito? Qua sei tra 3 e 4 comunque, Eugenio. Adesso sei Santiago 5, Eugenio. Adesso ti ascolto bene, dai. Ti ascolto bene, molto meglio. E niente, dai, io sono andato un attimino a mettere a posto le cose in camera. Adesso devo fare il mio dovere, andare a mangiare mia mamma e fargli l'insulina, la zia fatta, però devo sistemare un po' la casa. lo andavo a mangiare, alle 25 e poi uscire un po' stasera, dai, mi tocca, a me stasera, al venerdì, e niente, dai, io vi auguro una buona serata e alle prossime, avanti, Eugenio. Ciao Giuseppe, anche a te, dai, saluto, alla prossima, io chiudo, ciao, ciao, ciao.